Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Se siete seduti da qualche ora, io vi invito a sgranchirvi le gambe. Alzatevi dalla vostra sedia, mettetevi in piedi. Basta proprio fare qualche passo, per regalare un po' di benessere alle nostre articolazioni e ai nostri muscoli. Ma intanto che siete lì, misuratevi con un piccolo test. Sollevate una delle due gambe e piegatele indietro formando un angolo di circa 45 gradi. Ok? Va bene? Adesso provate a chiudere gli occhi. È più difficile, vero, mantenere l'equilibrio? Lo so, l'equilibrio è difficile da trovare, ancora più da mantenere, perché l'equilibrio nasce dall'armonia dei sensi e degli opposti. Cerca solo di mantenere l'equilibrio tra gli opposti. Vai pure verso gli opposti, ma mantieni viva la consapevolezza, in modo da essere un giorno capace di trovare l'equilibrio. L'oscillazione è quel che già stai facendo. Un momento sei contento, il momento dopo sei infelice. Sei andato da un estremo all'altro. Non occorre aggiungere altro che la consapevolezza. Osho. E a proposito di consapevolezza, facendo l'esercizio, sono certa che vi sarete resi conto di quanto il nostro equilibrio sia precario, pure lui. Basta infatti cambiare posizione o chiudere gli occhi per sbilanciarsi, ma non sempre è così facile rendersene conto. Oggi proveremo a farlo, intanto anch'io farò un esercizio di equilibrio perché dovrò dividermi tra due esperti che voglio salutare subito. Uno ce l'ho in studio, il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, io sono ancora intero perché abbiamo provato prima a fare il nostro movimento. Sì. E ci sono qua. E ho un altro in linea di Speciani, il dottor Luca Speciani, medico alimentarista. Buongiorno. Buongiorno. Come farò a distinguervi? Vi chiamo per nome? Sì, dai, direi che... Cosa dice? Se no Speciani A, B, no, dai, Speciani Luca è tu, A, Speciani B. Allora, Speciani Luca, noi non abbiamo suggerito l'esercizio a casa perché mantenere l'equilibrio su una gamba sola con gli occhi chiusi è un piccolo test. Dottor Speciani Luca. Sì, diciamo che quando ci si mette in quella posizione, se tutti gli altri sensi non stanno lavorando contemporaneamente bene, è possibile anche perdere l'equilibrio, cadere. Cioè, questo è un modo per capire, anche parlando tra di noi, che l'equilibrio è una somma di diversi fattori che lavorano insieme contemporaneamente, quindi anche delle volte capita magari di intervenire, non so, farmacologicamente su uno di questi fattori pensando che tutto possa andare a posto, invece non sempre è così, ecco, occorre un'armonia tra come diceva Osho prima, tra diversi fattori. In questo caso, chiudendo gli occhi, quello che era un equilibrio mediato anche dall'aspetto visivo prima improvvisamente non lo è più. E quindi se uno ha altri saldi elementi di equilibrio resta in equilibrio, se gli altri non sono saldi è possibile anche perderlo questo equilibrio. Certo, quindi... dottor Attilio Speciani, quando noi proviamo a chiudere gli occhi, non vedendo più, perdiamo l'equilibrio. Questo vuol dire che il nostro equilibrio bene o male è ancorato a qualche cosa. Io parlo di equilibrio fisico e di equilibrio psichico. È un dato bellissimo, tra l'altro mi ha fatto sorridere oggi lavorare su questa cosa perché sono reduce da un sabato e domenica in cui ho fatto uno stage dove parlavo di nutrizione, di yoga, e dove le posizioni dell'equilibrio sono estremamente importanti. Per cui la cosa che mi viene in mente da ridire è che in termini positivi, non solo negativi, è che quando poi nell'equilibrio in realtà si è perso perché hai preso un farmaco, perché c'è uno stato di stress, perché ti hanno chiuso gli occhi, perché hai sollevato una gamba, bisogna andarselo a ricercare. Cioè c'è anche un aspetto, diciamo, costruttivo dell'equilibrio. Noi abbiamo la possibilità di trovare nuove posizioni, cioè siamo fatti per adattarci, no? E quindi anche da questo punto di vista il fatto di poter trovare delle forme differenti di adattamento è il modo con cui ci salviamo e riusciamo a sopravvivere anche in questa società che tende a squilibrarci un po'. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde per persone che vogliono rimanere in equilibrio o per persone che vogliono perdere, lo stanno per perdere e per ritrovarlo. Naturalmente potete seguirci anche su Facebook e su Twitter. Ci sono tanti modi per perdere l'equilibrio e ci sono anche tanti modi per riacquistarlo. Basta, come dice Osho, prenderne consapevolezza. debolezza. Però, dottor Speciani, ci sono tanti piccoli disturbi. Which one? Quale? Attilio, che un occhio attento direi che può interpretare come segnali della perdita di equilibrio, carenze o eccessi dovuti a un'alimentazione, ad esempio, troppo ricca o raffinata. Che dice, Attilio? Ah, dico che questo è un campo di Luca, quindi tra poco glielo lascio, perché ormai la capacità di leggere questi dati proprio dal punto di vista clinico è immediato sul fatto degli squilibri alimentari. Però una invece elemento che spesso si coglie è quello della quasi come fosse un'immagine, no? Provo a darti un'immagine della persona che facilmente perderà l'equilibrio. Dai. Ed è uno che, come dire, cerca appoggi dovunque. In realtà noi non possiamo metterci a cercare, ti do l'immagine della persona che continua a guardare da una parte e dall'altra con l'occhio iperattento, come focalizzando ma in maniera iperattentiva. Noi abbiamo, in questo senso, l'esempio, presumo che oggi parleremo, qualcuno ci parlerà dei gatti, perché sì, è vero. I gatti classicamente sono gli elementi. Quando il gatto cade, no? In realtà non fanno partire degli elementi di precisa attenzione, ma di una cosa che noi fin dal paleolitico abbiamo, che è quello di riuscire a percepire le cose che abbiamo intorno in maniera anche un po' vaga, ma estremamente efficiente. Per cui quando il gatto si ribalta e riesce a ritrovare la propria posizione, per questo motivo noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che a volte per ritrovare l'equilibrio dobbiamo perderlo. Faccio un esempio. Sì. Chi salta da un trampolino classicamente ha bisogno di una fase di completo distacco dalle cose per poter entrare in acqua in maniera perfetta. Se tiene la mano sul trampolino, come quello di prima che continua a guardare in giro cercando agganci, in realtà rischia di farsi male e non riesce a fare un salto perfetto nell'acqua. Quindi questo è l'elemento così della persona che in realtà probabilmente, proprio perché ha la ricerca costante di agganci, ipercontrollato potremmo definirlo. Come ci sono le persone che devono avere la situazione sempre sotto controllo, sapendo dove sono i figli, l'agenda sempre sotto mano, il BlackBerry, la perfetto. Cosa, sempre tutto sotto controllo, perché se perdono questo vanno in tilt. In realtà sono le persone che maggiormente dal punto di vista clinico poi perdono il controllo, perché noi abbiamo bisogno di poche cose ben fatte. 800 24 00 24. Luca, ci sono dei segnali visibili a occhio nudo che ci indicano che magari stiamo perdendo l'equilibrio, abbiamo delle carenze, la nostra alimentazione è povera o troppo ricca? Per Marco, qui è un campo vastissimo. Ad esempio, una frase che noi usiamo spesso in terapia è quella che dice che l'abuso è figlio della restrizione. Qui di esempi ne verrebbero mille, ma pensiamo agli attacchi bulimici, per esempio, che sono quasi sempre governati da una dieta ipocalorica che è stata fatta precedentemente. Ecco, è un momento di squilibrio che porta a uno squilibrio ancora maggiore successivo, no? Mentre se noi avessimo fatto, per esempio, un'alimentazione normocalorica, cioè un'alimentazione bilanciata, non avremmo mai avuto quella necessità di scatto bulimico, quindi di iperalimentazione compulsiva, eccetera. Questo è un esempio molto chiaro, in cui molte volte invece poi si danno delle connotazioni psicologiche che, per carità, in minima parte sono presenti, ma che in verità non lo sono poi in maniera così forte, visto che poi appena si mette a posto la norma caloricità e si smette di fare una dieta sacrificante o restrittiva, immediatamente ritorna alla normalità, a un'apparente normalità. A proposito di carenze, Luca, ci sono dei segnali, ad esempio, quando noi vediamo che abbiamo i capelli sfibrati, fragili, spenti, dico capelli, ma penso anche ai parenti stretti, che sono le unghie, lì viene subito in mente, ecco, c'è uno squilibrio, una carenza, una perdita. Che cos'è? Lei pensi che la normocaloricità, cioè il fatto di mangiare in quantità adeguata, regola a livello ipotalamico tutti gli assi più importanti del nostro organismo, quindi diciamo che unghie e capelli sono proprio l'ultimo aspetto, ma mi viene in mente un esempio molto, molto semplice. Pensiamo all'umore, no? Quindi sul rene, come viene regolato a livello ipotalamico sull'umore. Tante volte ci sono queste tavolate di persone e noi abbiamo la persona allegra, simpatica, che sta al centro della attenzione, che è normoalimentata ed è anche dal punto di vista dell'umore molto allegra, molto simpatica, mentre nell'angolino abbiamo la persona che è perennemente a dieta, che è triste, che ha il suo germoglino scondito nel piatto e che non dice una parola a nessuno. Ecco, quella è una persona non in equilibrio. Se poi andiamo ad analizzare dal punto di vista medico, scopriamo che questa stessa persona che mangia solo il germoglino scondito poi ha anche la perdita di capelli, le unghie fragili, certo, il colorito triste, un pochino spento. Un po' troppo pallido, l'anemia subclinica, eccetera, eccetera. Quindi è uno squilibrio alimentare che si riflette poi in uno squilibrio. Cioè, perché il germoglio non rende allegri. Quali sono le persone che vengono da noi? In realtà l'elemento immediato per cui ti mandano le persone è che c'è la vicina di casa invidiosa che dice: l'ho vista, adesso sta mangiando di più e le è venuta la pelle bella a quella vigliaca là. Abbiamo Giuseppe che ci chiama da Trani, 800 24 00 24. Buongiorno Giuseppe, benvenuto. Buongiorno. Eccoci, mi dica. Niente, volevo intervenire su questa questione, nel senso che esiste un sistema, diciamo, fisiologico, che è una gestione sottocorticale dell'equilibrio e del movimento, e sì, ci sono una serie di sensori che abbiamo nel corpo che sono più o meno efficienti e ci danno la possibilità di gestire l'equilibrio in maniera più o meno ottimale. Quindi, a parte tutti i discorsi che si stanno facendo, vorrei sottolineare che esiste una maniera di valutare questa efficienza del sistema archeo-propriocettivo visivo, così si chiama, sì, o ribattezzato visuo-propriocettivo ad alta frequenza, da alcuni ricercatori, sì, e questo aspetto mi sembra peculiare per, diciamo, la questione specifica equilibrio, perché la persona si muove. Io sono un trainer fatto lì. Abbiamo capito, Giuseppe, che lei era un tecnico, e questo, quindi, sì, questa cosa di valutarlo e di allenarlo questo sistema è una cosa possibile con degli strumenti, ecco, anche con delle tecniche senza strumenti, diciamo, anche se è molto più vantaggioso farlo con degli strumenti dove c'è una traccia visiva e quindi, diciamo, facciamo funzionare, sì, il nostro sistema periferico confermandolo da questa traccia visiva, un po' come il ghepardo che insegue l'antilope, sì, fissa gli occhi sulla, diciamo, sulla coda della, e non li stacca di lì finché questa non riesce a fargliela staccare. E quindi Giuseppe quindi ci regala, sa, mi stavano cadendo le cuffie a proposito di equilibrio, mi stavo squilibrando. Intanto ringraziamo Giuseppe che ci conferma, no, la parola equilibrio, quanti significati può avere. Certo. Noi abbiamo iniziato la trasmissione cercando di stare in equilibrio su una gamba sola, io l'ho fatta anche sul tacco, devo dire che sono stata però bravissima, ecco. Giuseppe ci dice ci sono dei sistemi per valutarlo e ci sono anche degli strumenti e degli esercizi per allenarlo. Dottor Attilio. Il ghepardo e il gatto, che non, se ce la fanno comunque da soli, ce la fanno bene, voglio dire. Quindi a volte uno degli elementi importanti, al di là delle tecniche per recuperare particolari situazioni di anomalia, di danno, è proprio quello di recuperare la propria fisiologia. Ma pensa a quante volte situazioni di questo tipo possono trovare un aggiustamento, diciamo un riequilibrio spontaneo, cambiando l'ambito di movimento. Persone che fanno fatica a stare in piedi, le metti a nuotare in acqua, cioè gli ricambi, li obblighi a rimettere in moto dei meccanismi di percezione sul proprio corpo differente, ed ecco che riscattano quei meccanismi fisiologici per cui sia il gatto che il ghepardo di cui parlava prima Giuseppe possono funzionare senza creare problemi. E poi ci sono delle persone che avvertono di essere più equilibrate a livello fisico che non a livello psichico. Ciascuno di noi ha un punto debole per il proprio equilibrio. Ma direi meno male, nel senso che per fortuna non siamo perfetti, così ci possiamo bilanciare effettivamente le due cose. Poi, come per qualsiasi situazione che riguarda la parte fisica o emotiva, quindi direi globalmente, riprendendo, visto che siamo qui, parliamo di una visione che aveva il nostro papà, no? Mio e di Luca, per una percezione globale delle persone, per fortuna abbiamo più aspetti, perché alcuni intervengono a sostenere quelli parzialmente deficitari. Quindi questa visione olistica, che non è solo per trovare la causa delle malattie, ma anche la causa del benessere, la positività, la possibilità di stare bene, supportando alcuni degli aspetti che magari non siamo in grado di gestire. 44. L'abbiamo citato più volte, nelle nostre case vive un maestro dell'equilibrio, il gatto, sempre in controllo, no, del proprio corpo, riesce a compiere evoluzioni complicate senza mai perdere quel senso di eleganza che lo contraddistingue. senza contare, non è una dote da poco, che con i pompastrelli bombati riesce anche a muoversi in silenzio. Questo, quindi, stare in equilibrio senza, no, senza disturbare, è magnifico. È un equilibrista nato nel senso pieno della parola, come si legge anche nel libro di Salvatore Patriarca, che è in linea con noi. Ciao Salvatore. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Voi lo conoscete bene perché più volte viene citato qua a Essere Benessere, il responsabile editoriale di Salute 24, il nostro sito amico. Salvatore, il gatto è maestro di equilibrio e ha fatto, direi, di questa sua dote naturale una filosofia di vita. Beh sì, per tutte le persone che si trovano ad avere un gatto e hanno la possibilità di osservarlo, verificano tutti i giorni come sia davvero una sorta di maestro di saggezza che va osservato giorno dopo giorno. Tu dal tuo gatto che cosa hai imparato? L'equilibrio, ma soprattutto anche il lasciarsi andare, perché il gatto... Ma l'equilibrio e la fantasia e la sorpresa, una delle cose più belle dell'avere un gatto in casa, di vivere con un gatto, è da un lato appunto questo equilibrio, questa saggezza, ma dall'altro l'incredibile sorpresa che ogni giorno ci regala, questo cambiare atteggiamento, questo saltare, questo giocare quando uno meno se l'aspetta. Quindi un po' di squilibrio, come diceva il dottor Attilio Speciani, ce lo insegna anche il gatto e serve non solo al gatto. Serve non solo al gatto ma anche a tutti quanti noi. Infatti la cosa bella del vivere con questi animali è, laddove uno immagina di ritrovarsi la stessa cosa, di invece trovarsi una dimensione nuova, una sorpresa che ti permette di rilanciare la voglia di vivere e la possibilità di riconoscersi nella novità. Ecco, questo è un po' l'elemento quindi su cui vale la pena. Sorprendente, direi. Sì, sorprendente. Però fatemi dire, perché io, qui parliamo del gatto, lui sta su quattro zampe, noi stiamo su due, siamo difficilissimi. Tutte le volte che noi ci svegliamo al mattino facciamo un miracolo di connessione equilibristica, anche più importante, devo dire. Questo. Quindi se volete trovare l'equilibrio e se siete amanti dei felini, io vi consiglio, io che amo i cani, ho letto d'un fiato il libro di Salvatore Patriarca, La filosofia del gatto, e devo dire che ho ritrovato molto anche del mio cane, ma è un libro davvero interessante. Grazie Salvatore, buona giornata. Grazie Nicoletta, buongiorno a tutti. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Che cosa vi chiediamo oggi? Che cosa vi fa rimanere in equilibrio soprattutto e che cosa vi fa perdere l'equilibrio? Stiamo, come sempre, cercando di avere un approccio olistico. Parliamo di equilibrio nel senso di piacere della vita, parliamo anche di equilibrio articolare muscolare. L'equilibrio, abbiamo visto, si può declinare in tanti modi. Guardiamoci anche allo specchio e continuiamo, se non l'avete ancora fatto, a provare quel semplice esercizio che vi abbiamo suggerito in apertura. Molti mi stanno dicendo: l'ho fatto, barcollo, tiro a destra, tiro a sinistra. Tutte queste domande possono trovare una risposta con i nostri esperti. 800 24 00 24. Potete anche seguirci su Facebook o su Twitter. Aspetto i vostri messaggi al 349 238 6666. Si fa fatica a stare in piedi, manca proprio l'equilibrio. All'inizio credevo fosse un fatto mio, personale, ero un po' preoccupato, poi guardandomi più attentamente in giro mi sono accorto che la gente non è perfettamente in asse. Sono tutti un po' traballanti, tutta un'umanità che dondola, sbanda, slitta, cerca di stare in piedi in qualsiasi modo. Riuscire a mantenersi in equilibrio su un terreno instabile, insicuro, non è facile. 800 24 00 24, diamo subito la parola ai nostri amici, vediamo se sono in equilibrio, se hanno bisogno di una mano per riprendere l'equilibrio. D'altra parte è proprio l'equilibrio, noi lo riacquistiamo, lo recuperiamo muovendoci, e questo ci piace perché siamo sempre in cerca dell'equilibrio, lo perdiamo e poi lo ritroviamo nuovamente con delle situazioni di adattamento. Roberto, buongiorno da Luca da Lucca, e Rosy subito dopo da Pescara. Roberto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti e complimenti per la trasmissione. Io ho perso l'equilibrio mentale e psichico e da due mesi sto prendendo del cloruro di magnesio, che mi ha ridato una certa tonicità sia per i vari doloretti che avevo sparsi per il corpo. Tengo a precisare che ho 53 anni, e anche psicologicamente mi ha un po' volevo sapere dai suoi ospiti per quanto, io è 2 mesi che lo prendo e vorrei sapere che controindicazioni ha e per quanto tempo lo posso prendere. Grazie Roberto. Andiamo allora, la domanda di Roberto è: cloruro di magnesio, quando, perché e controindicazioni? Lui ha ottenuto dei vantaggi. Andiamo anche a sentire Rosy che ci chiama da Pescara. Buongiorno Rosy. Buongiorno a voi e buon inizio settimana. Grazie, questo ci piace. Brava Rosy, questo ci... Vi capisco, vi tengo sul cuore. Io l'equilibrio ormai non ce l'ho più, sono 15 anni che ci convivo con uno sbandamento continuo, che non, tolte tutte le varie ricerche fatte a livello fisico, patologico, che possa essere, questo equilibrio non c'è, pure faccio una vita molto tranquilla, sana, serena, però sbando dappertutto. Io adesso erano otoliti, poi otoliti non erano più, era cervicale, non e era poi cervicale. Non era più da cervicale. Non era più la cervicale, era lo stress, non era... e quando non c'è lo stress c'è lo stesso, ma insomma, ci dovrò convivere, ci sarà una soluzione, non so il professore se forse c'è qualcosa, una ricerca particolare a cui io possa affidarmi. Allora, grazie Rosy per la domanda. Iniziamo a rispondere a Roberto che ci chiama da Lucca, che ha avuto un beneficio. Allora, da Lucca direi che rispondo io, poi dopo secondo me risponde Luca invece mio fratello. Allora, magnesio, a parte che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, proprio specificando, era l'oggetto del nostro quizzone, devo dire, perché il magnesio ha davvero questa doppia azione, nel senso che da un lato è un integratore, una sostanza che spesso è carente, basta dire che chi mangia ad esempio troppo salato, per cui pane, cracker, grissini, formaggi, biscotti, cibi, salumi, no? In maniera abbastanza dominante, contestualmente perde magnesio, quindi ci troviamo ad averne una carenza spesso nella nostra vita di oggi. Il magnesio ha questa doppia azione, effettivamente riesce a riequilibrare l'aspetto della circolazione, riesce ad equilibrare alcuni aspetti di spasmo, ma soprattutto ha un'azione direi di riequilibrio sui micro aggiustamenti che dentro il nostro sistema dell'equilibrio mette a posto, no? Quando a volte noi diciamo che usiamo il magnesio in tutte le sindromi di Meniere, per esempio, noi usiamo il magnesio perché aiuta comunque a riequilibrare la situazione locale. Allora abbiamo sia un'azione locale di tipo fisico e contemporaneamente il magnesio ha una bella azione di miglioramento del rapporto con gli zuccheri, e di questo direi ne parlerà mio fratello Luca, ma soprattutto ha questa azione importante di riequilibrio della conduzione nervosa. Quindi vedi che abbiamo come un elemento fisico che sembra un mineralino lì, che sembra dir poco, come un germoglio lì. Ma sì, un germoglio. In realtà agisce a ampio spettro su almeno 3 delle componenti dell'organismo, riportandoti in equilibrio, come giustamente si diceva. Come noi vogliamo tornare? Ci sono delle controindicazioni, chiedeva il nostro amico? A questi dosaggi no. L'unica controindicazione è il cloruro di magnesio. Se uno ha la pressione alta, bisogna eventualmente scegliere altre forme di magnesio. Però di solito il dosaggio a cui il magnesio è utilizzato in queste forme di integrazione sono assolutamente serene. Luca, vuole aggiungere qualcosa? Ma indubbiamente, ecco, l'utilizzo del cloruro di magnesio, al di là del fatto del magnesio, è comunque, come diceva Tilio, in una forma che alza leggermente la pressione. Alcune volte questi giramenti di testa, questi cali di attenzione, di appunto di equilibrio, eccetera, sono anche legati a un'insufficienza pressoria, e quindi al fatto che non c'è poi un sufficiente afflusso di sangue al cervello, e quindi anche i centri dell'equilibrio vengono mal errorati e la persona può anche cadere, o se sta guidando uscire di strada, cioè possono essere anche rischiosi, e quindi se l'origine è in livelli di pressione piuttosto bassi, o delle volte magari per utilizzo di farmaci sul controllo della pressione, parlo di beta bloccanti, parlo di ACE inibitori piuttosto che sertanici, altre categorie farmacologiche e farmaceutiche che lavorano a tenere bassa la pressione, possono esserci poi giramenti di testa, aumenti di equilibrio, perché il farmaco induce un artificioso abbassamento della pressione mentre il corpo magari sta richiedendo una pressione più alta per qualche motivo, no? Questo è un modo di ragionare, appunto abbiamo detto prima, olistico, cioè cercare di capire perché? Prima capire perché il corpo chiede qualcosa e poi dopo eventualmente introdursi con un farmaco. In questo caso il fluoro di magnesio, oltre all'effetto del magnesio, dà questo lieve innalzamento pressorio. Sono tanti i nostri ascoltatori, lo dico ai due fratelli Speciani, che ci raccontano di avere proprio questa sensazione di perdita di equilibrio. Noi abbiamo dedicato nell'archivio di Essere e Benessere Trovate delle intere puntate al disturbo vertigini, disequilibrio. Ecco, noi tante volte abbiamo detto che c'è una centralina, no, del nostro equilibrio, che è protetta nel cuore del nostro orecchio. Ci sono delle indicazioni, dei suggerimenti da dare, sempre con un approccio olistico al problema, Luca? Ma io posso dare anche un'esperienza personale. Tanti anni fa, in un momento veramente di grande subbuglio della mia vita, ho avuto questi giramenti di testa, queste vertigini, quelle che poi vengono chiamate appunto sindrome di Meniere, eccetera. Ricordo con affetto Attilio che venne una notte con i suoi aghetti a sbloccarmi il pancreas, no? E sbloccato il pancreas andò a posto questa cosa, che ricordo come una delle patologie più antipatiche e fastidiose di tutta la vita. Cosa vuol dire sbloccare il pancreas? Ecco, avevo blocco. Evidentemente sì, forse Attilio può ricordare. Sì, ricordo perfettamente. Eri a letto bloccato da un paio di giorni, però con una situazione digestiva, no? A volte sì. La gente sa neanche dove è il pancreas, però diciamo che c'era un blocco digestivo potente, di cui l'espressione sintomatologica era poi che, in realtà, proprio perché quando tu hai un male nella pancia, tu, anche tutte le altre cose intorno si squilibrano. E lui aveva questo elemento che, visto dall'esterno, dice: hai la vertigine. E poi se invece vai un pochettino più a fondo, dici: no, non è vero, c'è il pancreas bloccato piuttosto che lo stomaco irritato. E poi se vai ancora un pochettino più a fondo, dici: ma forse è meglio che ti prendi un po' di vacanza e ti metti in equilibrio meglio. Ecco, il senso olistico era questo, vuol dire che io conosco e vedo tante persone tra i miei pazienti che hanno questi problemi vertiginosi e dove spesso viene affrontato con un farmaco soppressivo, in realtà spesso sono sintomo di qualche cosa che non sta andando a livello più profondo, no? Quindi tante volte risolvendo quel qualcosa che non va a livello più profondo si ritorna in equilibrio, a proposito. Si ritorna in equilibrio e a quel punto spariscono poi anche le vertigini, no? Quindi il farmaco può aiutare, può dare quell'attimo di sollievo momentaneo, temporaneo, eccetera, però è lo squilibrio profondo. Io l'ho vissuto, ripeto, sulla mia pelle. Ho fatto l'esempio del pancreas per dire una cosa che apparentemente non c'entra. Però diamo una risposta nulla. Anche alla Rosi, poverina. Adesso la Rosi dobbiamo dire qualche... Ad esempio, a me, quando parlava prima, diceva: ma io sono serena, tranquilla, a posto. E ho detto: magari il tuo slalom tra le cose ti è utile nella vita. Cioè, a volte uno, quando ha analizzato e tolto di torno quelle che sono le malattie, le condizioni gravose, eccetera, può essere che quel modo di serpeggiare un po' tra le situazioni familiari o meno che siano può essere utile. A me piace ogni tanto pensare, quando incontro le persone, anche ad un vantaggio della malattia, no? O del disagio, del disturbo. La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Albert Einstein, lettera al figlio Edward. Siamo in perenne movimento e in perenne ricerca dell'equilibrio. Dottor Speciani. Fantastico, sì. Direi rispondiamo in due, no? Luca, vai, è tua. Sì, sul movimento mi sento anche di fare una citazione simpatica. Noi facciamo spesso delle settimane di movimento, magari in montagna, così, a cui chiamiamo per vivere proprio sulla pratica questo benessere di alimentazione, di movimento, delle persone che magari non si sono mai mosse, sono sempre state. Noi le portiamo a camminare in montagna, su sentieri anche sassosi, dissestati, eccetera. Le persone che sono meno abituate al movimento soffrono un po' il primo impatto, no? Con questo col camminare su un terreno dissestato, con l'attraversare qualche fiume, qualche tratto un po' sconnesso, eccetera. Ma alla fine della settimana io vedo che poi le persone hanno imparato, no? Cioè, una settimana che cos'è? In fondo non è niente, però in una settimana hanno quella sensibilità propriocettiva di cui parlava il primo Giuseppe da Trani, che aveva chiamato a inizio trasmissione, che è allenabile, no? C'è un qualche cosa che si allena piano piano, e noi, se vogliamo, in una visione un po' più ampia, possiamo dire che siamo capaci di allenarci a superare meglio, no? Gli ostacoli, le asperità del percorso, come si fa con una settimana di cammino in montagna, dopo, i sassolini sembrano sabbietta, no? E riusciamo a passare via tranquillamente. E chi si abitua in quella maniera, perché poi corpo e mente sono una cosa sola, no? Quindi chi si abitua fisicamente a una maggiore sensibilità propriocettiva, dopo anche una maggiore elasticità nei confronti poi dei problemi concreti e pratici che ci trova ad affrontare tutti i giorni, come dice Einstein, insomma, o ci si muove continuamente, o se no si rimane fermi e non è un bene. Attilio. Noi tra l'altro abbiamo appena adesso mi è arrivata qui l'agenzia del Nobel per la medicina 2012 a Gordon e a Yamanaka a cui è stato appena assegnato il premio Nobel 2012 per la medicina, e vale la pena di fare una segnalazione, poi capirete perché rido dicendo segnalazione, perché gli è stato dato il Nobel per le ricerche sulla riprogrammazione cellulare. Sì, fondamentalmente, una cosa che sembra molto difficile. Sì, fondamentalmente loro si occupano di cellule staminali, che è un concetto che la gente comune sa che è una roba forse utile, ma non capisce assolutamente che cosa sia. Parliamo in termini concreti, che è proprio quella che è oggi la concezione dei segnali, cioè le cellule funzionano come le persone, se tu le tratti male, come dire, rispondono arrabbiandosi. Sì. No? Se la prima volta, la seconda. Allora, se invece gli dai dei messaggi coerenti e gli insegni a fare la manovra giusta, queste si riprogrammano, cioè mettono in moto dei meccanismi di guarigione. Ci sono ricercatori anche italiani che sta lavorando tantissimo da questo punto di vista anche sulle malattie tumorali, proprio nel dire, anziché sconfiggere, cercare di colpire il tumore a colpi di bazooka o bombe atomiche, riprogrammiamo le cellule che lo hanno generato, cioè gli facciamo fare un lavoro a monte in modo tale da dare dei segnali che possano indurre la cellula a ritrasformarsi nel modo giusto, come dire, guarda che stavi venendo su male, adesso io ti do gli segnali corretti e tu rinizi a crescere. È un po' come è il bastoncino che si mette alla pianta, ma no? È fantastico. Quando... è un elemento che cambia. Anziché abbattere la pianta perché è storta, significa riuscire a mettergli il bastoncino di fianco e dargli un segnale corretto. Luca è un esperto di segnali, perché i libri che abbiamo scritto insieme, soprattutto dal punto di vista nutrizionale, lui sa perfettamente come sono i segnali. Mi piacerebbero due parole. Quindi tue. Dal segnale alle cellule per aiutarle a riprogrammarsi, ai segnali che, Luca, noi possiamo imparare a riconoscere per metterci un po' come quel famoso, no, bastoncino accanto alla pianta, al nostro equilibrio. Forse la mia formazione agronomica di base, no, di alimentarista, mi porta a pensare che se non c'è l'acqua la pianta non cresce, no? Quindi che prima si lavora sulla base, sul grosso, no? E poi piano piano si va a raffinare. Invece oggi tante volte cerchiamo il raffinamento, no, dall'esterno, e non otteniamo grandi risultati. Parlare di medicina di segnale per me significa proprio quel bastoncino, cioè, ma il bastoncino forse è ancora una metafora di aggiustamento, come dire, di una pezza, no? Di metterci un qualcosa che aggiusta, e invece è ancora più bello, cioè quando poi il segnale parte corretto, la pianta viene su rigogliosa da sola, senza strappa il bastone, viene su per conto suo. Da strappa addirittura, dice, un po' come Hulk. Un'immagine così di forza, no? Perché il segnale è forte, invece noi siamo abituati a pensare che i segnali classici sono quello che è l'acqua per la pianta, significa per noi alimentazione sana, significa movimento, significa luce del sole, sono i segnali più importanti della nostra vita, e questi segnali noi spesso li bypassiamo, li consideriamo superflui, no? Andiamo a pensare appunto adesso al cloruro di magnesio, per fare un esempio di cui abbiamo parlato prima, vuol dire alla piccola integrazione, ma io dico sempre, prima della piccola integrazione, anche naturale, anche biologica, pensiamo alla luce del sole, pensiamo al movimento, pensiamo all'alimentazione corretta, che sono le tre basi che poi supportano tutto. Sulla base di questi segnali poi abbiamo delle centraline favolose che pulsano nel nostro cervello, che si chiamano ipotalamo, che si chiamano anche centri dell'equilibrio, e insomma tutta la parte del nostro cervello è magnifico, è tutto vero. Però in una puntata tutta dedicata, Luca, all'equilibrio, io vorrei anche spezzare una lancia a favore dei momenti in cui noi non siamo in equilibrio, spicchiamo proprio il volo, non siamo perfettamente in asse, ma facciamo qualche cosa. Abbiamo bisogno del nostro dottor Francesco Aquilar, che è già in linea con noi. Dottor Aquilar, buongiorno a tutti gli ascoltatori e gli ospiti. Dottor Aquilar, noi siamo in chiusura, abbiamo avuto la notizia del Nobel, ma vorrei che lei ci desse due parole chiave su cui riflettere, perché poi ci trasferiamo sulla pagina di Essere Benessere e riascoltiamo e andiamo a sentire il suo commento. Quando l'essere squilibrati un po' conviene. 30 secondi di squilibrio. L'emozione in questo caso è l'emozione di sorpresa. Noi a volte ci sorprendiamo trovando dentro di noi qualcosa di insolito che ci induce a fare una cosa diversa da quella che avremmo fatto e che ci sconvolge l'ordine delle motivazioni, aggiornandolo alla situazione attuale. Credo che 30 secondi la sorpresa è l'unica cosa che possiamo riconoscere. La sorpresa, ma non è nessuna sorpresa ritrovare il nostro dottor Aquilar sulle pagine di Essere Benessere oggi pomeriggio, il suo commento. Grazie al duo Speciani per essere stato con noi. Grazie a voi. Un po' di equilibrio, un po' di squilibrio. Noi torniamo domani sempre alle 11:00.